altri libri che tu hai scritto molto importanti su Gesù, sulla Madonna, sul Rosario, eccetera. Sceglierai tu quale vuoi commentare. Benissimo, grazie. Adesso siamo alla 17ª puntata di questo libro che tu hai scritto, diciamo sotto ispirazione, secondo me, intitolato Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Don Andrea Mardegan, della Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Siamo arrivati a pagina 142. Il titolo è Ormai sei grande e posso raccontarti. A te la parola. Bene, questa è appunto è Maria che racconta anche lei di quel viaggio verso Gerusalemme, dove poi Gesù era perduto e ritrovato nel Tempio, no? Allora, Maria, dopo che Giuseppe, l'abbiamo letto nella puntata precedente, aveva raccontato di quel viaggio, Maria dice: ricorda molto bene quel pellegrinaggio di Pasqua, Gesù stava diventando uomo. Nell'andare era molto pensoso e mi stava vicino, mi faceva domande profonde sul senso della vita e dell'amore, sulla relazione tra dolore e amore. Perché mamma, per amare bisogna soffrire? E risponde Maria: perché figlio mio, amare è dare la vita, e alla vita siamo attaccati, costa lasciarla, anche se poco alla volta. Tu sei figlio e nella tua casa sei libero, così anche nel mondo. La libertà è la strada dell'amore. Se non si ama è peccata. Io non ti lascio mai, ma ti oriento a crescere nella libertà, perché è il bene che sta più a cuore al Padre nostro del cielo. Più amiamo e più siamo liberi. Più siamo liberi e più possiamo amare. Tutte le persone esistono perché sono state amate dal Padre e perché noi le amiamo. In loro vediamo l'amore del Padre. Io conosco Dio e il suo amore attraverso di te, attraverso Giuseppe ed Elisabetta e Anna e tutte le persone, ma nessuno più di te, frutto del suo amore. L'amore spesso passa attraverso le ferite vive che bruciano la carne. Dobbiamo amarle, baciarle, perché ci fanno sperimentare l'amore. Tu sei l'amore di Dio che è entrato nel tempo per ricordarci che il tempo che abbiamo è tempo per amare, e che per l'amore c'è bisogno di tempo per capirlo e per viverlo, per comunicarlo e per riceverlo. Quindi scusa un attimo, allora vuol dire che Gesù come uomo è stato educato alla sofferenza e all'amore dai suoi genitori. Esattamente, questo è quello che io mi immagino, che poi lì, quando ormai è di 12 anni, quindi già diciamo, sta diventando adulto, papà e mamma gli dicono delle cose che poi, vedete, io faccio riflettere alcune cose che poi troviamo nel Vangelo, che lui dice come insegnamento suo, no? Certo. E appunto il discorso del figlio che è libero, e anche questo mistero grande dell'amore che in qualche modo è collegato col dolore, no? Che il dolore, che poi è la strada che lui ha scelto sulla croce per dirci l'amore di Dio, no? Ha scelto questa strada del dolore per manifestarci il grande amore con cui lui ci ama, no? E poi anche, e anche questo aspetto del tempo, ecco, io penso cioè i coniugi di oggi, no, che a volte fanno fatica a trovare tempo per stare insieme, per parlare, anche per stare coi figli, no? Invece, ecco, questo concetto che peraltro io ho sentito dire da un giovane, no, che faceva una considerazione, gli ho detto: senti che bello, stavo scrivendo questo libro, vuoi che posso mettere questa tua idea nel mio libro? E lui mi ha detto: senz'altro, no? Questo fatto che, ecco, Gesù entra nel tempo e ci sta dicendo in qualche modo che, quindi, l'amore di Dio entra nel tempo degli uomini, no? E quindi per l'amore c'è bisogno di tempo. Mi è piaciuta questa idea e l'ho inserita nel mio libro, e anche per incoraggiare le persone a dedicarsi tempo e a trovare il tempo per stare insieme, per parlarsi, i coniugi, i genitori con i figli e viceversa, e gli amici con gli amici. Gesù, amore mio, gli dice Maria, ormai sei grande, posso raccontarti tante cose. Quando eri appena nato, a 8 giorni, ti costava la circoncisione. Immagino che Maria, tornando a Gerusalemme, le torna in mente quella prima volta, no, con Gesù presentato al Tempio. E io non volevo, mi costava tanto il pensiero di quel dolore sul tuo piccolo corpo meraviglioso e santo. Da piccola al tempo avevo visto molti bambini soffrire per questo e rimanevo sempre turbata e mi chiedevo che senso avesse quel rito. Ecco, no, io premetto che rispetto tantissimo tutte le altre religioni, chi ha questa non voleva, e chi ci sono stato attento nello scrivere, ma mi sembrava interessante mettere questo pensiero nelle labbra di Maria. Tu eri già tutto santo, tutto di Dio, consacrato fin dal tuo primo istante nel mio grembo. Sei il suo figlio, tutto suo, che bisogno c'era di quel sangue? Sei il suo primogenito. Giuseppe però mi disse che se non l'avessimo fatto tu avresti potuto sentirti fuori dal tuo popolo che sei venuto a salvare. Gli altri avrebbero potuto considerarti uno straniero e non ascoltarti. Quel rito sarebbe stato il segno più evidente dell'appartenenza alla tradizione dei tuoi padri. Faccio un'altra parentesi, cioè senz'altro noi sappiamo nella storia del cristianesimo, proprio nei primi decenni, che ci fu quella discussione, no, tra i giudei diventati cristiani e poi qualcuno voleva imporre la circoncisione anche ai pagani, e poi alla fine invece la Chiesa decise proprio nel primo concilio di dire no, questo non si può imporre. E ecco, e quindi voglio dire, io in qualche modo forse con una cioè mi immagino che questo problema sia già risolto nel cuore di Maria, ma può essere il contrario, ma comunque questo ci aiuta comunque alla nostra contemplazione, alla nostra preghiera. Ma vorrei che tu sapessi, dice Maria Gesù, che l'amore di tuo padre ti ha creato integro e ti ha amato così. Per tuo padre tutto il tuo corpo è santo e bello. Non c'è parte di te che lui dispetti o che desideri il sacrificio. Ricordi, misericordia vogliono il sacrificio. Tuo padre vuole solo che riconosciamo il suo amore. In quel momento pregai molto il padre per te. Dopo il tuo primo pianto ti strinsi al seno e il mio latte fu per te. Sollievo e conforto, placò subito il tuo dolore. Poi ti curai con tutto il mio amore. Gesù mi guardava pensoso, commosso ma sereno. Rimane molto colpito e grato per quelle mie parole, in fondo al cuore conosceva già, ma sentirle dire da sua madre fu importante. Anche per me, come per Giuseppe, quel viaggio verso Gerusalemme, il viaggio dei 12 anni, fu il più intenso di intimità nei discorsi con Gesù. Poi c'erano i suoi amici, i giochi, le famiglie della carovana, la sua libertà di correre avanti a noi. Arrivati a Gerusalemme, la visita al Tempio fu come gli altri anni, intensa, gioiosa, piena di preghiera. Nulla di diverso dal solito. Gesù più grande, più intraprendente, più vivace. Venne il tempo di partire. La carovana si muoveva, eravamo in tanti, vari centinaia. All'inizio Gesù era con noi, ci apprestavamo a un lungo viaggio. Durante la giornata si era abituale che le donne stessero con le donne, gli uomini con gli uomini. Gesù mi aveva buttato lì una frase: voglio stare con mio padre. Ne ero felice. Giuseppe con gli anni aveva perso la sua ritrosia e aveva cominciato a dire a Gesù ciò che pensava, a passargli la sua esperienza di vita, la sua sapienza. La giornata di viaggio trascorse tranquilla, non vidi Gesù, ma lo sapevo con Giuseppe o con i suoi amici o con i nostri parenti. Fu alla sera, al radunarci per la cena, che non arrivò e Giuseppe mi disse che era convinto che stesse con me a continuare i discorsi del viaggio dell'andata. Con me lo aveva visto l'ultima volta. Cominciamo a cercarlo nei vari gruppi, seduti per la cena tra i fuochi. Facciamo fatica a restare sereni, a non farci prendere dall'ansia. Avete visto Gesù? È con voi Gesù? Nessuno lo aveva visto durante il cammino di quel giorno. Ci guardammo negli occhi con Giuseppe, angosciati. Riuscimmo a superare insieme la tentazione di darci la colpa nell'altro. È colpa mia, dicemmo quasi all'unisono, e quasi allo stesso tempo, ciascuno di noi lo negava per l'altro. Ecco, questo, cioè, capisco che per gli sposi, e non solo, no? Anche per tutti noi, quando collaboriamo, succede qualcosa che di non previsto, di antipatico, una contrarietà, la tentazione di darsi la colpa è molto forte, no? E invece forse lì si tratterebbe di pensare sempre che quando le cose non vanno bene, a volte non è colpa di nessuno, a volte è colpa di tutti e due, ma comunque non serve tanto, no? Darsi la colpa. E certo, questa è una situazione secondo, che a qualcuno può sembrare idilliaca, no? Nel rapporto tra Giuseppe e Maria, ma penso proprio che sia stato così. E in effetti poi dopo, quando faccio parlare Giuseppe subito dopo, che con un capitoletto che si intitola La paura dei rumori della notte, e comincia così: disse a Maria, non è vero, è accaduto perché doveva accadere. No, come se Maria avesse detto colpa mia, no, non è vero, è accaduto perché doveva accadere. Giobbe aveva detto: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E Maria gli dice: aspetta Giuseppe, non è ancora il momento, non sappiamo cosa sia successo, andiamo a cercarlo. Quindi è vero, come dicevo qualche puntata fa, che in questo libro direi che non ci sono litigi tra Giuseppe e Maria, però ci sono visioni diverse che poi arrivano, però si aiutano a vicenda, no? Si compenetrano e arrivano all'unità, all'armonia. Aspetta Giuseppe, non è ancora il momento di dire che è successo qualcosa di irreparabile, no? Sì Maria, dice Giuseppe, torniamo nella notte verso Gerusalemme, qui non riusciremo a dormire, vediamo se si è fermato lungo la strada, siamo abituati a viaggiare di notte per proteggere la sua vita, l'Egitto, no? Gli abbiamo detto che amare è dare la vita o rischiare di perderla e metterla in gioco, ecco, lo facciamo per lui. Nel camminare sperimentammo la paura del silenzio, la paura dei rumori della notte, il timore dei briganti che sarebbero potuti sbucare da ogni arbusto, il tuffo al cuore per i giochi delle ombre, ci tenevamo per mano. Ci dicevamo, dobbiamo guardare dove mettiamo i piedi, concentrarci su un passo dopo l'altro. La luna piena di Pasqua ci aiuta. Questo è un consiglio che a volte possiamo ricevere, no? Quando c'è un momento difficile, molto complicato, ecco, pensiamo al passo concreto che dobbiamo fare in ogni momento, al primo passo e poi all'altro, no? Stravolti arrivammo a Gerusalemme al mattino, la città brulicava di gente, un giorno intero di ricerche senza esito, sulle mura, nelle piazze, nelle botteghe, nell'orto degli ulivi, sulla spianata del tempio, nei vicoli stretti dove dormivano i pellegrini, anche per strada. Il dolore di quei momenti era non sapere. La mente vagava tra mille possibilità, alcune terribili. Cose sentite, veramente accadute, potevano essere accadute a lui. Da quella città Erode aveva scatenato la ricerca sanguinosa di nostro figlio. In fondo era passata solo una decina d'anni. Forse qualcuno lo aveva visto, l'aveva sentito parlare, aveva sospettato, si era ricordato, aveva fatto la spia, aveva trovato gente di quell'epoca, aveva sobillato il sospetto nel re. Ecco, questo a volte a noi capita quando non sappiamo cos'è successo, che ci vengono mille pensieri. Maria era più serena di me, aveva una percezione materna che lui fosse vivo e sano e vicino. Pregavamo insieme, questa volta con i salmi dell'angoscia. Io ne ho messi lì alcuni, Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera. Oppure ancora, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel giorno dell'angoscia alza te il mio grido perché tu mi rispondi. Dio, non startene muto, non restare in silenzio, inerte, oh Dio. Vedi, i tuoi nemici sono in tumulto e quelli che ti odiano alzano la testa. Ancora, la mia voce verso Dio, io grido aiuto, la mia voce verso Dio perché mi ascolti. E molti altri. Con Maria ci meravigliavamo della quantità di salmi che esprimevano il nostro stato d'animo. Qui ho messo in Maria Giuseppe la meraviglia che è stata anche mia, perché quando scrivevo, cioè, ho cercato nei salmi quali potessero essere i salmi che esprimono angoscia, e ce ne sono tanti, come sappiamo, no? E quindi la preghiera può essere anche, come i salmi ci insegnano come pregare, sono preghiere ispirate a Dio, anche nei momenti di angoscia possiamo pregare. Passammo un'altra notte di fortuna con tutti i nostri abiti addosso in mezzo alla marea di pellegrini, per addormentarci vicini, per scaldarci e proteggerci, ci sussurravamo. Ti ricordi la notte di Betlemme? Compare la grotta, arrivarono gli angeli, i pastori. Speriamo che sia così anche in questa notte, seconda notte dopo il secondo giorno senza di lui e senza sapere nulla di lui. Che cosa mi sarà successo? Un ragazzo d'oro, un tesoro infinito come lui? Che siano giunti i giorni, speriamo di no, della sua offerta al Padre per noi, che abbia voluto allontanarsi da noi per non farci soffrire. Ecco, così termina un po' questa testimonianza di, nella mia mente, tutti intorno a lui, che narra un po' come poi l'hanno trovato, no? Ci svegliamo infreddoliti e rattrappiti. La giornata luminosa e Gerusalemme scintillante nella sua bellezza ci diedero speranza. Rendemmo grazie a Dio per la notte e per il giorno, perché ci rendeva così uniti in quell'avversità. Senti, Giuseppe, gli dissi, tu e io lo sappiamo che lui viene dallo Spirito Santo e dal mio grembo. Questo significa che è figlio dell'Altissimo. Vediamo così, tu che scruti e conosci tutte le cose, indicaci la strada per ritrovare questo tuo figlio e poterlo nutrire, educare, proteggere fino a quando potrà compiere la sua missione. Lo Spirito Santo rispose subito alla nostra preghiera, facendomi ricordare quelle parole dette di sfuggita: voglio stare con mio padre. Se non era con Giuseppe durante il viaggio, dove era dovuto stare se non nella casa di suo padre nel Tempio? Già ieri abbiamo cercato lì, obiettò Giuseppe. Sì, gli dissi, ma siamo rimasti fuori, siamo arrivati fin solo dove non possono entrare le donne. Andiamo dentro, là dove ci sono i sacerdoti, sono sua madre e io e mio figlio, entreremo, non mi fermeranno, mi farò riconoscere come colei che ha prestato servizio, la figlia di Gioacchino. Dirò loro, sto cercando mio figlio che abbiamo perduto. Andammo decisi, con la determinazione di una madre a cui hanno rubato un figlio. Le forze moltiplicate, invocammo gli angeli del Signore di proteggerci, trovammo il modo, conoscevo bene il Tempio, le vie secondarie e deserte, mi coprì un po' il volto, non mi fecero caso. Arrivammo in una sala dove solevano radunarsi i maestri a discutere sulle scritture e sulla legge di Dio. Udimmo la sua voce squillante, osservammo meravigliati la scena. Era seduto come il maestro dei maestri e tutti intorno a lui. Si mescolavano nel mio cuore e in quello di Giuseppe i sentimenti più diversi: la gioia di averlo ritrovato sano e salvo, la gratitudine a Dio, poi lo stupore. Non doveva forse aspettare di essere adulto? Si stava svelando come il maestro dei maestri di Israele ed era ancora un dodicenne. Giuseppe e io avevamo speso ore a spiegargli e a insegnargli cose che sapeva molto meglio di noi. Perché non ci aveva detto nulla? E com'era possibile, dopo tutti i discorsi sull'amore che ci avesse fatto, soffrire così? Gesù li ascoltava, questo è il Vangelo di Luca, li ascoltava e li interrogava. I maestri erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Avevamo la segreta soddisfazione che qualcuno al di fuori di noi due, e così autorevole, avesse potuto conoscere e ammirare un po' del mistero ineffabile di nostro figlio. Anche noi eravamo un po' imbambolati tra la stanchezza della notte, le emozioni, lo stomaco chiuso per la tensione. Giuseppe era preso dalla paura di quei sacerdoti. Adesso lo osannano, ma poi, proprio qui Erode consultò i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo per sapere tali profezie, il quale luogo sarebbe nato il re dei giudei, e ingannò i magi per poter arrivare a uccidere Gesù. Alcuni di loro potrebbero ricordarsi. Giuseppe non si fidava della loro ammirazione. Se Dio, per mandare suo figlio a salvarci, metto fra le virgolette come discorso di Giuseppe, non ha consultato i sacerdoti del Tempio, un motivo ci sarà, pensava, e si confidava con me. Andiamoci al più presto, mescoliamoci alla folla. Gli diedi retta, riprese le forze e la potenza della madre ferita e mi fece avanti anche dei dottori del Tempio, anzi fiera di essere madre di quel prodigio. E voi ascoltate lui con tanta devozione, adesso lui ascolta me. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Nelle mie parole mise Giuseppe prima di me il padre di famiglia che mi aveva sostenuto e guidato in quei 3 giorni. Non mi accorgevo che quella scena e quel dialogo erano un'immagine terrena della Trinità. Bello. Bella, sì. E Gesù aveva capito che eravamo molto uniti e infatti rispose a entrambi. Ma vedi, è la mamma che parla, cita Giuseppe e il papà, e poi Gesù risponde a tutti e due, no, perché sono molto uniti. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? non comprendemmo la sua risposta. Pensavamo, le cose del padre tuo non sono anche a Nazareth e nel lavoro di Giuseppe, la tacemmo. Capivamo che lui è troppo in alto rispetto a noi. Poi, mescolato con la sua origine divina, c'era anche un pizzico di adolescenza umana. Forse i nostri discorsi dei giorni precedenti erano stati troppo precoci. Meglio aspettare, ne riparleremo con lui in un momento propizio, dopo, a casa. In effetti funzionò, tornò con noi, era docile e amorevolmente disponibile. Cresceva ancora e io custodivo tutte queste cose nel mio cuore a maturare. Con Giuseppe ci dicevamo, quando noi siamo uniti, anche i momenti difficili di nostro figlio rientrano, vengono assorbiti dal nostro amore. Qualche giorno dopo ad Antaret, in un momento di intimità, ripensando a quell'avventura, scherzavo su quello che c'era successo a Gerusalemme e dicevo a Giuseppe, se ti va male con il lavoro di carpentiere potrei sempre proporti come investigatore delle guardie del re. E si scioglieva nel sorriso la nostra stanchezza. Ecco, questo così si conclude. Bellissimo questo capitolo. Hai reso molto bene questa angoscia dei genitori, ma anche il fatto che Gesù fosse un mistero per loro, vero? Esattamente, cioè al contempo è figlio, loro lo educano e al tempo è un mistero. Cioè è vero che ciascuno in qualche misura territorio genitori è un mistero, nel senso che c'è l'unicità di ciascuno, anche, però evidentemente Gesù è molto di più un mistero per loro, perché evidentemente c'è questa natura divina insieme alla natura umana che in qualche modo comincia a manifestarsi o si manifesta in qualche episodio, e questo è l'unico episodio che il Vangelo riporta, è il più forte, forse il più eclatante. Poi io me ne sono immaginato alcuni altri piccolini così nella vita ordinaria e li ho scritti secondo la mia fantasia nel libro, però questo è un episodio molto forte e insomma, ecco, quindi ve lo offro per poter, come mio contributo alla contemplazione di questo mistero, no? Della gioia, però anche poi del dolore, nel quinto mistero gioioso del Rosario. E dobbiamo rendere molto omaggio a San Luca, che ha voluto mettere dentro questo episodio. Assolutamente, senza il Vangelo di Luca quante cose non avremmo, no? Della vita di infanzia di Gesù, e veramente sì, ecco, io ho molta devozione per lui, mi piace tantissimo il suo Vangelo, e si vede che lui ha portato appunto tradizioni dei racconti di Maria, così mi immagino io, che poi riferiti o direttamente attraverso la Chiesa a lui, e sono arrivati fino a lui, che lui li ha messi così bene per la nostra gioia, la nostra contemplazione del mistero di Gesù, anche da bambino e anche da adolescente, no? Sì, sono tutte cose che lui ha saputo dalla Madonna stessa. Eh sì, per questo forse poi la Chiesa, la tradizione della Chiesa lo immagina pittore di Maria, no? Come nella Vergine di San Luca di Bologna, no? Cioè, si immagina che perché nel suo Vangelo c'è influito il ricordo, appunto queste cose che Maria contempla, alcune delle cose che Maria conservava nel cuore e meditava, e sono arrivate grazie a Dio, grazie a Maria, grazie a San Luca e grazie alla Chiesa che ha accolto il Vangelo di Luca come ispirato il suo Vangelo, e quindi anche nella nostra, anche nelle celebrazioni della Messa, ma quante volte leggiamo nelle feste di Maria questi Vangeli, e non è mai, non sono mai, non so se capita anche voi, non risultano mai, come dire, già conosciuti, noi sono come sempre nuovi, no? Sempre. Novità. Allora una bella benedizione, perché possiamo sempre meglio approfondire questi misteri e metterli in pratica. Sì, allora la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Maria di Giuseppe, diciamo che Maria, e discenda su te, su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, su tutte le nostre famiglie, i nostri cari, soprattutto i malati, i bambini, gli anziani, e rimanga sempre. Amen. E anticipiamo il prossimo incontro, che si intitola Tornammo a Nazareth. Esattamente. Grazie infinite, Don Andrea, continua a pregare per noi, ricordarci nella Santa Messa. Per me. Grazie. Grazie, grazie. A presto, a presto. A presto. Pronto Gianluca? Sì, buonasera, ciao.